Sei su Radio Wombat. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera amici che ci ascoltate, da tanto che ascoltate la mia trasmissione 8 Hertz. Partiamo così, metto questo incipit. Nel 1970 dal vivo si suonava anche così e c'è chi faceva questa musica. Ricordiamolo, sono famosi perché hanno inventato veramente tantissimi generi pur non essendone così consapevoli. Il pezzo in questione è una parte di un brano che si chiama Vom Himmel Hoch, proprio del primissimo disco, e infatti si sente che ancora non erano diventati elettronici e basta, come hanno fatto via via negli anni. Sempre di più e sempre più radicali. In questo periodo erano ancora sul crowd rock, sul rock, e c'avevano anche qualcosa di più aggressivo, un po' simile punk. Perché dico questo? Perché la puntata di oggi narra proprio la storia di alcuni personaggi, alcune band che a fine 1970, quindi i Kraftwerk, sono stati degli anticipatori anche lì, hanno pensato di fare del punk attraverso l'uso non più di non di chitarre, bassi o batterie vere, ma con l'utilizzo di suoni sintetici, quindi con tastiere, effetti digitali, batterie elettroniche e aggressività tanto e rumore tanto. Per cui erano tra l'altro tanti personaggi di queste band, erano tutti studenti, giovani, un partistoidi, studenti dei migliori college, tra l'altro, soprattutto americani. Quello di stasera infatti è un viaggio soprattutto tra New York e San Francisco, in particolar modo a San Francisco, dove proprio nacque questa scena abbastanza spontaneamente. Comunque, e fa anche un po' da ponte il brano dei Kraftwerk tra le cose appunto che abbiamo ascoltato nelle settimane scorse, più marcatamente elettroniche e industriali, fanno proprio da ponte per qualcosa di più suonato, come in tante altre puntate che ho fatto, anche come retrospettive, insomma, un po' più punkizzate. Un altro gruppo appunto che ha agito dal 77, qui siamo a Los Angeles, quindi vicino a San Francisco, insomma in quel lato lì, furono i The Screamers, che in realtà non hanno registrato un album ufficiale che sia uno, ma registrarono un sacco di demo e di concerti. Per cui il pezzo che ho scelto è proprio tra le demo del primo periodo, che va dal 77 al 78, loro sono stati attivi fino all'81. Appunto, abbandonate le chitarre e bassi, e tanto suono elettronico però in chiave punk, quindi ascoltatevelo, che da lì anche loro hanno creato qualcosa di nuovo. Buon ascolto. I grandi The Screamers, pionieri anche loro di questo genere che poi definirono per lo più synth punk o electro punk, e tutti i figli che sono nati da loro. Un altro gruppo che ha proprio fatto tabula rasa di tutto quello che c'era in passato e ha aperto le porte ad altre 300.000 forme di fare musica, che ormai sono diventate anche mainstream e quindi non riconosciamo più i generi da dove sono partite le cose. Ecco, i Suicide sono uno di quei gruppi che, soprattutto con il primo disco, hanno dato un imprinting forte veramente per tutta la musica che è venuta dal 77, perché il primo disco è del 77 in poi. Il primo disco proprio si chiama Suicide e avevano iniziato da poco entrambi perché è un duo formato da Alan Vega, che fu tra l'altro uno sperimentatore a suo modo vocale, perché nel suo modo blueseggiante e rock and rolleggiante di cantare usava quasi fisso un delay abbastanza marcato, e Martin Rev al sintetizzatore, che era una sorta di farfisa scassato, ed altri effettini vari con anche la batteria elettronica della tastiera stessa. Comunque veramente un duo che ha usato dei mezzi minimali e con pochissimi soldi, con un investimento ridicolo, sono riusciti a creare qualcosa di veramente mai sentito anche dal vivo, perché insomma anche i testi erano parecchio aggressivi e spesso i concerti finivano in rissa. Insomma, ascoltiamo il primo pezzo, cioè il pezzo tratto dal primo disco, si chiama Frankie Teardrop, che è anche un po' un horror story, un po' alla Nick Cave, che praticamente Frankie è questo signore che va al lavoro, ha una figlia e una moglie, lavora sempre, trascura tutti, fino a che un giorno si rompe, spara alla figlia, alla moglie e poi si uccide. Bella storia, insomma, è una storia poi purtroppo ricorrente per chi si fissa col concetto di lavoro. Frankie Teardrop, tra l'altro, che è il nome del brano, appare anche nella colonna sonora di Un anno con 13 lune del grande Fassbinder. Ascoltatela e capite, se non l'avete mai sentiti, quante influenze possono avere avuto i Suicide anche sulla dance music, sull'ambient, sul noise, sulla techno, su veramente tutto. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Well, let's hear it for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. Let's hear it for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Frankie is so desperate. wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie looked at his wife. Shut up. What have I done? Let's hear it for Frankie. Frankie with a gun to his head. Frankie's dead. think he's lying in hell. Sermone cattivissimo e ossessivo ai massimi livelli. Siete su Radio Wombat e questa è 8 Hertz, una trasmissione che appunto ogni settimana si insinua nella mente delle persone per creare un viaggio sempre diverso e sempre molto particolare e unico. Intanto voglio anche salutare Andrea e Megan che ci stanno ascoltando addirittura dalla Cornovaglia, mi avevano scritto poco tempo fa, quindi vi saluto, ciao ciao. La trasmissione è sul synth punk o electro punk e su quello che è stato generato in seguito. E come capite bene dai primi ascolti, insomma, è stato generato tanto, almeno per quello che riguarda addirittura la New Wave, perché tanti gruppi, come quello che metteremo in seguito, sono partiti facendo una cosa più estrema per poi, sempre in una versione particolarissima, sono andati a finire nel bacino del mainstream e quindi con sonorità più orecchiabili, ma comunque sempre interessanti. È il caso dei Divo, che sono un altro gruppo famosissimo, un gruppo dell'Ohio, un gruppo che si è formato dagli studenti del Kent State University, usando un po' un'ironia, senza un po' molto marcata, avevano espresso l'idea della de-evolution, ovvero che il mondo non sta andando avanti, ma appunto si sta devolvendo fino a diventare proprio delle persone brutte, ecco, quasi sempre più stupide, che in realtà non hanno sparato fuori dal vaso, anzi sarebbe un altro, il detto sarebbe un altro, ma sinceramente con l'andare dei tempi ci rendiamo conto che i Divo, una forma ironica, avevano un po' predetto quello che negli anni via via sta accadendo. Firmarono dopo poco, tra l'altro, per la Warner Bros., che li scoprì e riuscì a capire il loro potenziale di impatto verso la massa. Tra l'altro loro erano vestiti anche in modi assurdi, soprattutto con degli specie di cappelli di plastica o metallici che loro dicevano servivano perché se dovessero venire gli alieni, li lasciavano in pace dalle radiazioni e quindi dal pilotaggio del cervello che sarebbe successo. È un gruppo tutto da scoprire, ci sono tantissime, come si può dire, tantissime aneddoti sul loro conto, anche che quando andarono a firmare per la Warner erano proprio vestiti in questo modo, se non peggio, avevano anche delle sorte di cannucce in bocca attaccate a non so quali aggeggi che si erano messi nel corpo per non so quali motivi, non me li ricordo. Comunque, il pezzo si chiama Yoko Homo, che è un po' una presa in giro di Yoko Ono, è tratto da un disco, il primo, che è tra i più belli, che si chiama Question, Are We Not Men? Answer, We Are Devo. Tra l'altro questa è la versione del video, perché erano comunque legati molto all'attività filmica, per cui hanno fatto un sacco di cose anche dal punto di vista video. Ascoltateli, Yoko Ono, la versione praticamente considerata l'originale, bella fuori di testa come erano loro. You're late. Have you got the papers the Chinaman gave you? Here he is, Dad. Did it surprise? Yes, Boogie. In the past, this information has been suppressed, but now it can be told. Every man, woman, and mutant on this planet shall know the truth about de-evolution. Oh, Dad, we're all evil. Thank you. con la loro forte carica ironica, dicono che non hanno sentito i saluti per vari motivi, e quindi li risaluto ancora. Ciao Andrea, ciao Megan, che stanno ascoltando dalla Cornovaglia, e quindi il Wombato si sposta anche nelle regioni nordiche, fredde, nebbiose e piovose. Ciao. E prima si diceva del fatto che tanti gruppi di questo genere sono venuti da San Francisco. Adesso ve li faccio ascoltare qualcuno, tra l'altro sempre importanti, come il primo che è qui in programmazione. Loro sono i Voice Farm. I Voice Farm, appunto, San Francisco, tutta roba del 1980-81. Anche loro all'inizio più estremi, poi sono diventati sempre più synth pop. Infatti nel 91 fecero un singolo abbastanza conosciuto che si chiamava Free Love. La cosa importante, il pezzo che metto si chiama Sleep, è tratto sì dal singolo, da uno dei primissimi, che era appunto un 7 pollici Sleep su un lato e Mother Things da un altro, ma apparivano anche proprio come ultima traccia della famosissima compilation Let Them Eat Jelly Beans, che uscì per Alternative Tentacles, curata da Yello Biafra. Facemmo proprio un paio di mesi fa una retrospettiva sull'Alternative Tentacles e di quanto fu importante questa compilation per far arrivare l'hardcore americano, il punk o comunque un certo tipo di espressioni personali come appunto questa e tante altre che ci sono anche nel lato B, che è un po' meno classic style. Comunque sempre dovevano arrivare a più persone possibili, e infatti la compilation riscosse successo e fece conoscere a un sacco di ragazzini tanti gruppi belli, e l'ho scoperta anch'io, tra l'altro me la registrarono in cassetta, non ho avuto mai la fortuna di averci il disco originale, che esiste solo in LP. Comunque Voice Farm, Sleep, questa è la sonorità marcata del synth punk o electropunk di San Francisco. Thank you. Farm, Sleep, un'altra band del periodo che ha avuto un po' la stessa storia, si chiamano i The Units, e questa è la bellissima Warm Music Body, tratta da Digital Stimulation, che è sempre il loro primo disco del 1980. Buon ascolto. Ricordare un po' la programmazione di Radio Wombat, che ormai è poco più di un anno che è attiva, imperterrita va avanti in ogni stagione, pure d'estate. Vi ricordo qualche programma degno di nota, ma sinceramente sono tutti belli, o quantomeno tutti curiosi e tutti con un perché. Partiamo dalle nuove trasmissioni che si chiamano Coming Song, che, come un po' fa capire il nome, è una trasmissione che parla di cinema e musica, quindi se siete interessati ad ambe le cose è il vostro programma. 13 Boots 20 sulla cultura funk di strada e OI, Senza Frontiere, che è una sorta di rivista, di radio rivista sull'internazionalismo e sui problemi e le lotte un po' di tutto il mondo. Passaggio a Nord-Ovest, sempre con contenuti sociali, riguarda tutto ciò che succede nella piana, quindi a Nord-Ovest di Firenze, sia come problemi ma come anche iniziative. Poi Cocklets Licio, che è roba da nerd su aggeggi, diavolerie tecnologiche e accrocchi vari. Soul Time sul Northern Soul e derivati. Fuoco alle polveri, un altro bel contenitore dove vengono ospitati scrittori, registi, critici, insomma di tutto di più, intervallato a brani musicali. E poi le classiche, già alcune di quelle erano classiche comunque. E poi c'è la mia, che è 8 Hertz, l'Accademia della Brusca, che è sulla linguistica malvagia. La fuga del gatto di musica classica, poi Tonight Alive con delle grossissime retrospettive su personaggi e soprattutto concerti live veramente difficili da trovare. Slick Chick, altro programma dedicato ad alcuni aspetti della musica, è sempre con chiavi diverse, anche lei formando dei viaggi unici per chi ama ricercare e scoprire qualcosa di diverso musicale. Credo di averle dette più o meno tutte. E noi andiamo avanti sempre con i gruppi di San Francisco. Tra l'altro alcuni li ho potuti conoscere grazie a dei dischi, anche a dei video che sono usciti di live al Target, quindi Live at Target, che era un locale di quelle parti, era un locale che sembrava quasi uno squat, dove venivano proposte appunto delle musiche estremissime, tra cui appunto anche i Factrix, ma anche roba che ascolteremo dopo come i Nervous Gender o altri progetti anche di gruppi più famosi. Ora non mi ricordo, perché ricordarsi tutto ci vuole una testa troppo sveglia. E quindi niente, i Factrix erano un gruppo che, oltre a tirar fuori l'aspetto elettropunk, hanno tirato fuori anche una sorta di modo industriale di fare musica. Quindi in effetti loro collaborarono subitissimo con Monte Cazzazza, che è quello che lanciò lo slogan industrial music for industrial people, che formò un'etichetta industrial, che conosceva i Throbbing Gristle, che ci ha suonato con i Psychic TV e ha suonato pure con i Factrix. Questo per dirvi un po' le idee che giravano anche musicali nel 1981 e negli anni successivi, ma anche quelli poco prima, quindi a fine anni 70, quando il punk ha lasciato anche qualche idea in più di quella che banalmente le persone individuano. E quindi ora ci ascoltiamo entrambi due pezzi, uno di seguito all'altro. Il primo dei Factrix, che si chiama Ballad of the Grim Rider dell'81, è tratto proprio dal primo disco, che si chiama Shane Tot. E tra l'altro questo pezzo è molto curioso, perché è, come dice il titolo, che è una ballad, c'è anche molto di folk in realtà, se riuscite a leggerlo in quella chiave. E Monte Cazzazza invece, il pezzo si chiama The Womb is Happening Things, che è di molto dopo, del 91, ed è suonato insieme a Chris Nkosi, che erano i due dei quattro dei Throbbing Gristle, che si chiamano anche, oltre a Chris Nkosi, si chiamano anche Carter e tutti, perché uno è Chris Carter e lei è Cose e Fanni Tutti, a presa di giro. Quindi buon ascolto, noi ci sentiamo dopo questi due pezzi. Thank you. Anche se non ci sono chitarrone, batteria e i classici accordi in barré e la violenza classica punk hardcore che qui si viene tirato fuori in un modo completamente diverso. Si diceva prima, continuiamo a parlare dei gruppi, dei Nervous Gender, che anche loro non sono proprio di San Francisco ma di Los Angeles, gli anni sono i soliti e anche loro li ho scoperti proprio sempre da questi famosi live al Target. Nervous Gender si chiamano così, che la chiave di lettura è un po' questo personaggio, membro del gruppo, che si chiama Frank col PH, una tipa dall'apparenza androgena, per cui appunto Nervous Gender va proprio a anticipare anche un po' quello che tante persone hanno preso in causa come l'antigenere sessuale. E infatti sono un gruppo un po' di punta per tutto il movimento queer, in particolare il queercore. Perché? Perché hanno tantissimo di hardcore proprio, le loro performance erano abbastanza corte, sperimentalissime, innovative e anche di confronto con il pubblico, di sfida proprio nel fare ascoltare sia testi che musiche completamente sì, estreme anche ai fruitori dell'hardcore più estremo, perché queste cose non le avevano proprio mai sentite. Vi metto due pezzi, uno di seguito all'altro, tratti dallo stesso disco. Farò un'eccezione perché sono due aspetti del gruppo che merita di essere mandati nella puntata per farvi capire bene un po' di quali gruppi stiamo parlando e di cosa hanno portato avanti. Si chiamano, il primo pezzo è Fat Cow e il secondo Pion Elage. Il primo è tratto dal lato A, che era tra virgolette più punk hardcore, il secondo era propriamente più sperimentale e rumoroso. Il disco si chiama Music from Hell del 1981, che proprio è l'annata perfetta per l'elettropunk. Ascoltateveli, sfasciatevi bene il cervello, vedetemi anche i live, li potete trovare sempre sul tubo, ormai si trova un po' tutto. Nervous Gender inizia con Fat Cow per arrivare a Pie on a Ledge. Sitting around, you gather up lies and gather up leers, all drilling in tears, and you shouldn't surprise. There's lust in your sight, it begs on its tiptoes, can't you see it? With those lurid baby's blue eyes. 9-year-old come and munch on some of my kidney. It shouldn't surprise that cloying odor. I'm beating my head against the floor. I'm trying to digest the way you molest. Hold back, but I must succumb to your lust. It's worse than a hellhound to seduce me. With that slender honey blonde crust. Do you want a candy? Blueberry pie, warming my lap while I am driving home. It shouldn't surprise you in the least. In fact, you did taunt me to persist. Won't mom have a fit? She's such a blunt git to leave you on a ledge. It's a sweet sacrilege. It's more than ecstatic. Can't you feel it? With that set of private comestibles, I stole me a blueberry pie. In this 9-year-old guise, in sunburned honey blonde eyes, stuck under those baby's blue eyes. Radio Wombat, 8 Hz, electropunk, noise punk, synth punk e derivati. E adesso vi metto proprio un pezzo tratto da uno di quei live di cui ne abbiamo parlato, del Target, di questo progetto che appunto si trova proprio insieme nello stesso video con i Factrix e i Nervous Gender, che si chiama Hans, scritto UNS per chi lo volesse ricercare. Che è il progetto dall'80 all'83 di Zev, che è abbastanza conosciuto nel panorama sperimentale, attivo da fine anni 60, da ragazzino, sciamano delle percussioni, tutt'oggi continua a fare dischi che sono anche ambient drone, che appunto partono da suoni di percussioni completamente rimanipolati e rimanipolati alla fine e appunto pioniere anche lui di tante esperienze musicali con un concetto proprio sciamanico, che non è questo il caso, perché qui era in una forma più cattiva elettronica e anche low tech. Infatti appunto in questo live, con questo progetto, quantomeno con Hans, usava anche lui dei farfisa vecchi, un Ecoplex, vari sinterelli effetti da pochi soldi, e poi nastri su cassetta a varie velocità, cut up coi vinili, insomma tutto quello che ci piace, insomma, diciamocelo. Vabbè, ok, quindi questa è la prima parte del concerto al Target del 1981. Hans, che dietro questo nome si cela appunto Zev. I was fond of self-destructive, very self-destructive. I was that over and over again. Shit, I'm up here doing this and I was similar and I didn't belong. I didn't fit, and I used to identify with self-destruction. Shit, what do I worry about? Keep my balance? Fuck, that's old ways of being destructive. I was sick with just a short while ago, and it's horrible when that goes. It's like I live by day to day. There's no past, no future, but just today. no past, no future, but just today. No past, no future, just today was. Just today was. Parte 1 direttamente dal live al Target. Adesso vi ricordo un po' cosa c'è il fine settimana. Fondamentalmente quello che abbiamo scelto è per domani sera, venerdì, al Next Emerson di Firenze, super serata che parte dalle 20 con una scena a base di ribollita, che ci tengono a precisare che è fatta a modino, e dolci autunnali, festeggiando un po' la fine di questo autunno e l'inizio dell'inverno. E alle ore 21 la presentazione dell'agenda scarceranda del 2018 a cura di Radio Onda Rossa di Roma. E dalle ore 22 partono le performance cine audio di cinema reinventato e artigianato in pellicola dell'Atelier MTK di Grenoble, che sono famosissimi per le cose che fanno. 70 FPS da Napoli sono questi gruppi di appunto di performance video e audio che utilizzano proprio dei 16 mm, dei proiettori 16 mm rimaneggiati, usano delle tecniche astruse, narrano anche degli albori del cinema, quindi usando anche del materiale, dei tipi di sabbia e di colori specifici per pellicola. E poi non lo so perché non li ho mai visti e sono molto curioso di capire anche cosa metteranno in atto. A seguire, dopo queste performance che sono tante, il live dei Gargamella, scuri signori venuti dal Medioevo, che è appunto un duo nostrano che propone roba dal medievale allo sperimentale in una chiave unica. E adesso continuiamo con un po' gli ultimi pezzi della trasmissione. Vi do un po' un assaggio di quello che poi è diventato l'elettropunk, di come si è modulato negli anni a seguire. Un gruppo così che mi interessava farvi ascoltare si chiamano I Am Spoonbender, che appunto sono sempre di San Francisco, che è la trade union un po' della serata. E il disco è del 97, del 98, e loro sono formati nel 97, quindi quasi 20 anni dopo, si può dire. E sì, la musica non è più così carica di significati anche politici, ma si è miscelata più al post rock, al post punk, al synth pop, al math rock. Quindi vi lascio ascoltare questa traccia, appunto tratta dal primissimo disco loro, che si chiama Sender Receiver. No, è il secondo, scusate, secondo disco. Il brano è l'ultimo, che è lunghino, e si chiama Mr. Knife Miss Fork. I Am a Spoon Band. questi sono i suoni che galleggiano nella forma d'onda in questa puntata di 8 Hz in Radio Wombat, suoni che appunto sono partiti dall'elettropunk o synth punk per arrivare ai fine anni 90, primi 2000 con componenti più post rock e più pop elettroniche, ma sempre insomma di buon livello di follia, ecco. L'unico gruppo del quale stasera metterò un pezzo viene da Londra, l'unico gruppo appunto di europeo, si chiamano Adden Twix. Iniziarono sotto piccole etichette, ma poi finirono sotto la Mute. Ad oggi si sono fermati. La cosa interessante appunto fu che era un gruppo marcatamente elettronico analogico, nel senso che suonavano dei synth veri e non computer e laptop, e dietro, da alcuni lavori in poi fino alla fine, utilizzavano una batteria acustica, e il tutto veniva reso un po' innovativo. E, tra l'altro, un disco, forse il più bello, ora non mi ricordo come si chiama, comunque lasciamo stare il disco. Hanno fatto vari video in cui c'è la componente a fondo sessuale marcata, ma comunque non visualizzata concretamente. Per cui i video non sono mai stati censurati, ma sono anche curiosi, divertenti e belli, come quello di Metal Fingers in My Body, in cui una donna fa un sesso con un robot, ma è si può dire un corto di animazione. E poi è molto carino anche Plug Me In, dove delle ragazze, delle attrici porno giocano con veramente tantissimi tipi di sex toys, ma senza che poi venga vista nessun tipo di penetrazione, ma solamente ammicca a quello che puoi fare con quegli oggetti. Quindi insomma divertenti, certi contenuti cambiano appunto da qualcosa di più socialmente radicale e di opposizione rispetto a questi concetti, ma insomma sono sempre interessanti. Il pezzo in questione è la cover di I Wanna Be Your Dog, rifatta in una Peel Session del 2001, non si trova nelle discografie ufficiali, io l'ho scovato così un po' per caso, e appunto parlando di punk mi sembrava carino mettere degli Adden Twix questa cover. Buon ascolto. Tra l'altro suonata appunto dal vivo per le famosissime Peel Session. Adden Twix. I want you. Aden Twigs, Wanna Be Your Dog, coverizzata, che era ovviamente un famosissimo pezzo degli Stooges. Siamo arrivati alla fine, anche perché da un po' che siamo in diretta, quindi ultimo pezzo, non poteva che essere un pezzo che riassume un po' tutta la puntata sull'electropunk, con un gruppo di fine anni 90 che si chiama Men's Recovery Project, hardcore a sto giro, anche nei contenuti, che erano fatti da due membri dei Born Against, che sono un gruppo storico degli anni 90, hardcore newyorkese. Il brano in questione si chiama Vote Fraud o Fraud on the Moon Base, tratto da Resist the New Way. Il disco è molto vario, ho scelto un pezzo parecchio punk, parecchio cattivo, cortissimo. Con questo brano vi saluto, vi do la buonanotte, grazie a chi ci ha sentito. Noi ci vediamo settimana prossima, che molto probabilmente ci sarà il secondo volume di Il Pulsante sulle improvvisazioni in pieno anonimato, in piena libertà, di elettronica con pochi synth, pochi effetti e molto mistero, ecco, su chi ci sarà. Buonanotte, 8 Hertz Radio Wombat, alla settimana prossima, ciao. Man is on the moon. Don't go to the moon, this ain't gonna waste.